le coste d'argento. La luna baciò gli amanti della pellerina, una favola che il mare annegò. Racconta il poeta la storia che lei non poteva fare a meno dell'uomo che amava e lo raggiunse oltre la frontiera, proprio nel cuore un polmone di Siracusa. C'è un posto che respira natura, si chiama Balsacradina, si vedono ancora i resti della sua fortuna. Qui sorgevano templi che il tempo ha scritto nella storia. Oggi uomini ruspe come ladri del vento stanno distruggendo anche l'aria con il cemento. Non si curano né fanno curare, senza vergogna vogliono cancellare le tracce che il divino ha lasciato. Questo è uno stupro, un saccheggio, un agguato. Un amante ha dato la vita per raggiungere l'uomo che amava. Cosa noi dovremmo fare per salvare la nostra memoria, che è scritto in ogni pietra, su ogni fiore, su ogni rosa. Il nostro nome, la nostra aria, i nostri alberi, la nostra storia. Vieni qui a Siracusa, vieni vento a rispolverare, che qui gli uomini hanno perso ogni traccia del loro cuore. Vorrebbero cancellare il luogo sacro, fiaba ancestrale. Vorrebbero bruciare con un piccone mille anni di sole. Vieni qui a Siracusa, vieni vento a rispolverare, che qui gli uomini hanno perso ogni traccia del loro sapere. Vorrebbero cancellare il luogo sacro, fiaba ancestrale. Vorrebbero bruciare con un piccone mille anni di sole. Nel bar lungo la notte caffè non si parla d'altro, di questo scempio che violenterebbe il nostro sogno, il nostro canto. Perché non costruite i vostri scempi pure in piazza Duomo? Quanto pagherete il giorno della festa di Santa Lucia il perdono? Pindaro il poeta ne cantò la bellezza alla seconda pentopoli di Siracusa, diede bocca, diede saggezza, la curia, il pritaneo, il foro, l'altare della concordia, il tempio di Giove Olimpio. Di tutto questo ne fareste uno scempio. Oggi uomini ruspe come ladri, ladri del vento, stanno distruggendo anche l'aria con il cemento. Non si curano né fanno curare, senza vergogna vogliono cancellare le tracce che il divino ha lasciato. Questo è uno stupro, un saccheggio, un agguato. Un amante ha dato la vita per raggiungere l'uomo che amava. Cosa noi dovremmo fare